Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 765 e parleremo di un anniversario dolente, della difficile condizione del lupo e dell'orso nel territorio europeo, di cavalli sfruttati oltre i propri limiti fisici. La colonna sonora della puntata è di Gianluca Masala. La ricetta della settimana, come sempre, di Gabriele Palloni. Un anno fa a Sairano, in provincia di Pavia, nel rifugio per animali cuori liberi, Crosta, Crusca, Pumba, Dorothy, Mercoledì, Bartolomeo, Ursula, Carolina e Spino furono ingiustamente uccisi dal personale sanitario della regione Lombardia. Un'uccisione di gruppo motivata come misura di prevenzione per contrastare la diffusione della peste suina, una decisione fortemente contestata dal movimento animalista. Fu un evento tragico che suscitò grande indignazione e molte proteste. A Milano ci fu in ottobre uno dei cortei animalisti più partecipati degli ultimi anni. Su questa vicenda è stato appena realizzato un documentario, in programmazione in questo periodo in diverse località italiane. Si intitola Cuori liberi fino all'ultimo respiro ed è stato presentato in anteprima al Cinema Beltrade di Milano. Abbiamo chiesto a Sara D'Angelo, portavoce della rete dei santuari italiani per animali liberi, di ricordare i fatti e anche il senso del documentario su un episodio che LAV, Lega Antivivisezione, ha definito un atto di forza e violenza incomprensibile, con il quale è stata scritta una pagina nera di storia della tutela dei diritti degli animali. Un anno fa, la strage di Sairano, il 20 settembre 2023, quando la polizia e i veterinari dell'ATS di Pavia entrarono nel rifugio Progetto Cuori Liberi appartenente alla rete dei santuari di animali liberi e uccidevano 9 maiali liberi, lì custoditi, salvati precedentemente dal macello. Animali sani che erano sopravvissuti alla peste suina africana e intendevano vivere. L'ordine era arrivato dall'alto, dal commissario straordinario per la peste suina africana e dalla regione Lombardia, e a nulla, a niente era valsa la resistenza di decine e decine di attiviste e attivisti che si erano barricati fuori dal rifugio e all'interno del rifugio per proteggere gli animali e per impedire l'ingresso delle forze dell'ordine che accompagnavano i veterinari che dovevano terminare i maiali. Non servirono a nulla le trattative, le mediazioni, i numerosi contatti con le istituzioni, la richiesta di deroghe, neppure la visibilità mediatica a livello internazionale, nel supporto legale fornito da due grandi associazioni animaliste come LAV e LNDC, Animal Protection. Nulla riuscì a impedire il massacro. A distanza di un anno da quella strage e dalla manifestazione di protesta che il 7 ottobre 2023 portò per le strade di Milano oltre 10.000 persone da tutta Italia, nulla è cambiato. Non abbiamo avuto alcuna garanzia da parte delle istituzioni sull'incolumità per gli animali che ospitiamo nei rifugi. Nessuna deroga, nessun protocollo sanitario ad hoc specifico per le strutture che gestiamo, i santuari che lo stesso Ministero della Salute ha riconosciuto come rifugi permanenti con decreto del 7 marzo 2023, come non equiparabili agli allevamenti e i loro ospiti come animali non destinabili per l'alimentazione. Da allora abbiamo lanciato la campagna Giù le mani dai santuari, che ha l'obiettivo di mettere i residenti all'interno dei santuari in salvo e al sicuro, quindi ottenere finalmente quei protocolli sanitari differenti, specifici per le realtà come le nostre, che sono non allevamenti. Durante quest'anno abbiamo incontrato tutte le istituzioni di ordine grado, abbiamo portato avanti moltissime iniziative per ottenere questo risultato che ad oggi però non è ancora ottenuto. Sta uscendo in questi giorni un film, un docufilm con la regia di Alessio Schiazza e di Alessia Camposeo, che si intitola Cuori liberi. È un documentario che racconta i fatti tragici di quei giorni. Questo film speriamo possa arrivare in tutte le città e coinvolgere sempre più persone raccontando la verità. La verità che è accaduta al santuario Progetto Cuori Liberi e tutti i cortocircuiti che riempiono la narrativa delle istituzioni su alcune questioni importanti e molto dibattute, come in questo momento la peste suina africana. Speriamo di vedervi nei santuari o nei cinema a vedere Cuori Liberi. Arrivederci. Dai documentari ai video. Ce ne sono un paio, facilmente rintracciabili in rete, che parlano di noi, persone umane del mondo occidentale, e del rapporto che abbiamo con gli animali selvatici. In questo caso, gli orsi. È un rapporto malato e conflittuale. Il primo video è un breve filmato, ripreso dall'auto da un cittadino qualunque in Trentino, la provincia nella quale gli orsi sono stati messi al centro della propaganda politica e purtroppo anche delle decisioni più estreme da parte dell'amministrazione pubblica. Il filmato mostra tre giovani orsi su una strada che fuggono, inseguiti dall'automobilista, visibilmente spaventati, finché non riescono a dileguarsi fra i vigneti. È probabile che i tre giovani orsi siano figli di KJ1, mamma orsa fatta uccidere nell'estate scorsa dalla provincia autonoma di Trento, dopo l'aggressione subita in un bosco da un turista. L'episodio ripreso dal video dice molto di quel che accade in Trentino. Avvicinarsi agli orsi, addirittura inseguirli, sia pure allo scopo di filmarli, e poi con un'automobile, è esattamente ciò che assolutamente non si deve fare, nell'ottica di una corretta convivenza fra orsi e umani. E sappiamo che proprio la formazione della popolazione, la gestione del territorio, considerando che anche gli orsi sono abitanti del posto, l'informazione diffusa ai residenti e ai turisti, è proprio ciò che è mancato di più nell'attuazione di Life Ursus, il progetto di ripopolamento degli orsi in Trentino, avviato ormai molti anni fa. Oggi siamo all'estremo opposto. Invece che lavorare per costruire una relazione positiva, si agisce per distruggerla del tutto e lucrare consensi politici con la politica della paura e dell'odio. L'automobilista che ha ripreso i tre giovani orsi ha dimostrato di non conoscere o di essere del tutto disinteressato alle norme che dovrebbero disciplinare i rapporti fra le persone umane e gli animali selvatici. E d'altronde l'orso è divenuto in Trentino solo uno spauracchio col quale tenere in scacco e al tempo stesso blandire la popolazione o parti di essa in un gioco fin troppo scoperto. Un gioco purtroppo efficace, almeno sul piano elettorale, molto meno in verità sotto quello dell'immagine per la regione trentina, che si sta facendo fama di avversaria della vita selvatica, di avversaria della natura. Non molto efficace la politica seguita dalla giunta Fugatti anche sotto il profilo della sbandierata sicurezza del cittadino, che non è certo garantita dall'uccisione di questo o quell'animale, ma da una corretta formazione e informazione dei cittadini, ciò che non si è voluto mettere in pratica. L'altro filmato, sempre riguardante gli orsi, è disponibile sul sito del settimanale Internazionale. È un servizio giornalistico di 5 minuti della rete televisiva europea Arte e parla del caso della Romania, il paese con la maggiore popolazione di orsi in Europa, circa 8.000 esemplari. Negli ultimi anni vi sono state numerose aggressioni a persone umane e 27 morti. Dopo il caso più recente, nei mesi scorsi, il governo romeno ha deciso di autorizzare l'uccisione di 500 orsi all'anno. Un'enormità. Ma che cos'è realmente accaduto? Il servizio mostra come gli orsi, in molte zone turistiche e montane, siano diventati un'attrazione. I contatti con gli umani sono frequentissimi. Vengono adescati con il cibo per scattare foto e fare filmati, anche selfie, dando le spalle all'animale. E questo è davvero ciò che non va assolutamente fatto. Ed è facile osservare che le numerose segnalazioni di incontri, di incidenti, di ferite, fino addirittura alla morte, con gli orsi hanno a che fare con questa eccessiva dimestichezza. Gli orsi, infatti, così facendo, perdono la paura dell'uomo, si avvicinano ai centri abitati e i contatti si fanno così frequenti, come i ferimenti e alla fine anche, in alcuni casi, le uccisioni. Difficile che la scelta del massacro di 500 orsi all'anno cambi lo stato delle cose, se non cambiano i comportamenti umani. Lo dimostra il caso di un piccolo centro, illustrato nel servizio televisivo, dove si registravano fino a poco tempo fa oltre 200 segnalazioni di contatto umano-orso all'anno. In questo luogo, anziché le doppiette, sono intervenuti tecnici del WWF, che hanno agito in modo ovviamente non cruento, con provvedimenti molto concreti: rendere ermetici i cassonetti dell'immondizia, elettrificare le zone urbane frequentate dagli orsi, vietare di dare da mangiare a questi animali. Questo insieme di misure ha fatto sì che gli orsi ormai non si vedano quasi più nella piccola cittadina, tanto che le segnalazioni di contatto umano-orso sono scese a una decina all'anno. Si profilano quindi due modi molto diversi di affrontare la questione degli eccessivi contatti fra umani e orsi, con i conseguenti incidenti. Il primo, l'abbattimento di massa, è il più facile, il più populista, perché la violenza, quando praticata dal più forte, è percepita come una misura efficace da chi si sente da quella stessa parte. Il secondo è meno plateale, e però è sicuramente più efficace se l'obiettivo è davvero la sicurezza delle persone, e alla fine anche degli orsi. Vale per la Romania, vale per il Trentino e per tutta l'Europa. If you ever get close to a human and human behavior, be ready to get confused. And me and my hereafter. There's definitely no logic to human behavior. And yet so irresistible. And me and my fear can. And there is no map. No, there is no map. Uncertain. No map. No map. They're terribly moody. Oh, Quanto sia difficile il rapido peggioramento del rapporto delle popolazioni europee con gli animali selvatici è testimoniato anche dalla recente decisione da parte dei rappresentanti dei 27 paesi dell'Unione Europea di declassare la protezione del lupo. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha dato l'ok alla proposta di declassare i lupi dall'appendice 2, cioè specie di fauna strettamente protetta, all'appendice 3, specie di fauna protetta, nell'ambito della Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica. Questa proposta verrà quindi presentata durante la sessione di lavoro del Comitato Permanente della Convenzione di Berna, convocato per il 2-6 dicembre. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti in sostanza propone di abbassare lo status di protezione del lupo facendolo passare da rigoroso a semplice, permettendo così agli Stati membri di avere più flessibilità nel gestire casi difficoltosi di convivenza. Siamo quindi al preludio di un cambiamento, quindi di un indebolimento delle leggi di protezione del lupo esistenti un po' in tutta Europa. Le associazioni degli allevatori hanno giustamente espresso subito grande soddisfazione, visto che la possibilità di uccidere i lupi il più liberamente possibile è una richiesta che avanzano da tempo, forse davvero convinti di poter così proteggere il loro bestiame dalle predazioni. In realtà è poco probabile che ciò avvenga, vista l'esperienza compiuta ormai in molti luoghi, ma sappiamo bene che in queste vicende più della pratica conta la teoria, più del risultato concreto conta quello ideologico, propagandistico. Il bestiame si protegge con recinzioni e cani da guardiania, a meno che naturalmente non si riesca a eradicare del tutto il lupo, e questo probabilmente è l'obiettivo non dichiarato da allevatori e cacciatori, che già in passato, peraltro, questo obiettivo avevano raggiunto in molte zone d'Europa. Ora cacciatori e allevatori puntano a centrare lo stesso obiettivo con il favore della legge, approfittando dei tempi di scelleratezza e di grande prestigio della violenza che stiamo vivendo. Siamo, dopo tutto, e non per caso, un continente in guerra e in preda a un'intensa propaganda bellicistica. E questo si riversa non solo sui conflitti armati, fra stati o interni agli stati. Molto netto il giudizio negativo su questo passaggio da parte del WWF. La decisione degli stati membri, dice l'associazione ambientalista, è il triste epilogo della battaglia personale della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, incredibilmente basata su una vendetta personale contro i lupi e volta a compiacere una parte del settore agricolo. Va ricordato in effetti che nel 2022 il pony prediletto di von der Leyen era stato ucciso da un lupo nella tenuta di famiglia in Germania. E da allora l'esponente politica della destra tedesca, presidente riconfermata della Commissione europea, è fra le portabandiera della politica di allentamento della protezione del lupo in Europa. Il WWF critica anche il governo Meloni, che si è accodato. Votando a favore della proposta, dice il WWF, il governo italiano conferma la sua posizione anacronistica e ideologica sulla protezione della biodiversità in Europa e in Italia. È una decisione gravissima che apre pericolosamente la porta agli abbattimenti del lupo in Europa e ignora l'appello di oltre 300 organizzazioni della società civile e di centinaia di migliaia di persone che hanno esortato i governi a seguire le raccomandazioni della scienza e a intensificare gli sforzi per favorire la coesistenza con i grandi carnivori attraverso misure preventive. Ma questo purtroppo non è il tempo né della prevenzione né della precauzione, è il tempo della sopraffazione. Don't change your name. It's all the rage. sick. Firenze, nel luogo forse più simbolico della città, il Ponte Vecchio, nei giorni scorsi un cavallo, adibito al trasporto in carrozzella dei turisti, si è piegato sulle zampe, accasciandosi al suolo, stremato dalla fatica e dalla tensione. Trascinare una carrozzella nella confusione del centro di una città, e Firenze è una città affollatissima di turisti schiamazzanti, è per i cavalli un supplizio, una forma di tortura. La fotografia del povero animale stremato in un luogo così simbolico ha fatto rapidamente il giro dei social, suscitando commenti di commozione e di indignazione. Sonny Rikiki, presidente di Italian Horse Protection, la più importante associazione di cura e protezione degli equidi, commentando l'episodio con il Corriere Fiorentino, ha detto: «È ora di finirla con queste pratiche barbare, incivili, anacronistiche. Siamo letteralmente subissati», dice Rikiki, «da messaggi di turisti italiani e stranieri che manifestano il loro sdegno rispetto a questa pratica. Nel 2024», conclude il presidente di Italian Horse Protection, «non è accettabile che gli animali vengano sfruttati per il supposto divertimento di qualcuno. Il comune», conclude Rikiki, «abolisca le carrozze con animali e incentivi i mezzi elettrici». A Gabriele Palloni, che è fiorentino, abbiamo chiesto una ricetta che ci permetta di pensare la città libera dai fiacchierai, come vengono chiamate a Firenze le carrozze trainate da cavalli. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi nasce dall'indignazione di un tosco vegan chef nei confronti di quella violenta e inutile usanza di portare a spasso orde di turisti a bordo di carrozze trainate da cavalli. Tutto ciò sotto qualsiasi temperatura. E indovinate un po', ogni tanto ne collassa qualcuno. Ma che strano fenomeno. Vabbè, c'è poco da fare il bischero. Vi racconto la ricetta delle uniche carrozze fiorentine che vorrei vedere. Gli ingredienti per 4 persone per la carrozza fiorentina sono 4 fette di pane toscano, 100 g di farina tipo 0, 50 g di farina di ceci, 200 g di spinaci, 100 g di tofu, 100 g di pan grattato, un pizzico di noce moscata, uno spicchio di aglio, un cucchiaio di lievito alimentare, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, sale e pepe e olio per friggere. Preparate una pastella mescolando le due farine e aggiungendo acqua fino ad ottenere un composto liscio e piuttosto denso. Aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e aggiustate di sale. Lasciate riposare la pastella per circa 30 minuti. Nel frattempo scottate e strizzate gli spinaci. Saltateli in padella con uno spicchio di aglio in camicia e un giro di olio extravergine. Quindi tritateli con un mixer assieme al tofu, la noce moscata e il lievito alimentare. Aggiustate di sale e pepe. Private il pane della crosta e tagliate ogni fetta a metà. Spalmate metà fette con la farcia di spinaci e tofu e chiudete con il pane restante. Immergete rapidamente nella pastella facendo scolare quella in eccesso e passate nel pan grattato facendo una leggera pressione. Friggete in abbondante olio fino a doratura e fate asciugare su carta per frittura. Servite calde con un pizzico di sale in superficie. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.